Fujiko Live Club. In studio Nevio Bencivelli. Ciao a tutti, Nevio al microfono, appunto, anche se tragicamente in ritardissimo, ma il traffico bolognese solitamente impestato, questa mattina lo era veramente ancora molto, ma molto molto di più, e quindi mi scuso, mezz'ora è già andata in pratica, quindi faremo una prima parte ridotta, prima parte che comincia, a proposito, la trasmissione che state ascoltando si chiama Città Fujiko Live Club, va in onda ogni mercoledì dalle 10:30, traffico permettendo, per 2 ore di musica dal vivo, e parte sempre con una novità, che oggi è una novità veramente succulenta. Si tratta dell'ultimo album live degli Who. L'album si chiama With Orchestra Live at Wembley, e il titolo dice già tutto. Non starò a dilungarmi sugli Who perché sapete sicuramente più di me su di loro, e vi dirò solamente che questo album è stato fatto insieme alla Elizabeth Griffith Orchestra, che è un'orchestra di 57 elementi con direttore Keith Livingston. Il tutto è stato registrato sabato 6 luglio 2019 ed era la prima volta dopo 40 anni che gli Who suonavano a Wembley. Basta con le chiacchiere, andiamo subito con un super classico della band di Roger Daltrey e Pete Townshend. Thank you. tutta la Isobel Griffith Orchestra ad aiutare gli Who nel questo brano che è uno dei classici della loro storia, Bob O'Reilly, e il tutto appunto registrato il 6 luglio del 2019 e immortalato in questo doppio album più DVD che si chiama With Orchestra, anzi The Who With Orchestra Live at Wembley. A questo punto c'erano un sacco di cose da farvi ascoltare con di gruppi rock accompagnati dall'orchestra, quindi faremo un piccolo riassunto perché ce n'erano veramente tanti, a cominciare naturalmente da Deep Purple che sono stati indubitabilmente i primi. Andiamo invece adesso con una band olandese che vi ho già fatto ascoltare altre volte, che a me piace molto. Sono due fratelli, Pablo e Luca van de Poel, insieme all'amico Robin Piso, formano una band che si chiama The Wolf. Loro hanno suonato al Teatro Carré di Amsterdam il 23 e il 24 settembre del 2020 e hanno pubblicato quelle registrazioni, un album che si chiama appunto The Wolf e Metropole Orchestra, che è appunto l'orchestra un po' più ridotta, non 57 elementi come prima ma un po' meno, però l'accompagnano alla grandissima. Il brano che ci andiamo ad ascoltare è appunto i The Wolf con la Metropole Orchestra diretta da John Plomp, si chiama Freeway Fly. Enough of your freeways spiraling forever in my mind. Seem to wind me down enough to hang my head and ride some heavy heart and songs about it. Anche in questo caso era di scena la Metropole Orchest, che è un'orchestra olandese. Non a caso i due pezzi che ci siamo ascoltati, primi The Wolf con un finale un po' che è meglio dimenticare, e era registrato in Olanda, ma anche questo album che si chiama Silva è stato registrato in Olanda e vedeva in scena, oltre appunto alla Metropole Orchest, anche i titolari dell'album, che sono gli Snarky Puppy. È una mega band anche quella, quindi praticamente due orchestre a confronto. Il brano che ci siamo ascoltati si chiama Gretel. Concludiamo questa mini rassegna, forzatamente ancora più mini del solito, con coloro che hanno iniziato tutto, vale a dire Deep Purple. Nel 1969, nel settembre del 69, suonarono e incisero il concerto for Group and Orchestra insieme alla Royal Philharmonic Orchestra, e 30 anni dopo ci hanno rifatto, era esattamente il 25 e il 26 settembre del 99, con il direttore Paul Mann, sempre la Royal Albert Hall, hanno suonato per intero il concerto per gruppo e orchestra, più una serie di classici di Deep Purple, tipo questo che conclude la prima parte ridotta di Città Fuggicolevica di oggi. Thank you very much. Thank you. We're doing a few songs now from Quadrophenia. Seconda parte di Città Fujiko Live Club di oggi, seconda parte di questa trasmissione meno amata, soprattutto, anzi, nella prima parte, la seconda invece sarà normale e come da norma è iniziata con la novità che vi propongo quest'oggi, che sono l'ultimo album doppio più DVD degli Who con l'orchestra, appunto si chiama With Orchestra Live at Wembley. Come ha detto lo stesso Roger Daltrey, il pezzo che ci siamo ascoltati è tratto da Quadrophenia e si chiama The Real Me. Anche in questa trasmissione meno amata, però nella seconda parte arriva sempre Ricordi di Today, i brani che sono stati registrati nel corso della giornata odierna, nel trascorrere degli anni. Ancora una volta vi dirò che ce ne sono tantissimi in questo 3 maggio, prima trasmissione di questo mese, fra parentesi, e quindi il criterio, come sempre, è quello di un brano per ogni decade. Oggi abbiamo tantissime decadi, per cui iniziamo subito dal 1968. Siamo al Fillmore East di New York City, dal lato opposto della città in cui vivevano i Jefferson Airplane. Però sia il Fillmore East che il West a San Francisco erano gestiti da Bill Graham, che era il manager dei Jefferson Airplane, e quindi ogni tanto li mandava a New York per concerti, come fece anche quel giorno, appunto, del 3 maggio del 1968. I concerti furono addirittura due, ce ne furono anche il 4, e gli highlights di questi due concerti sono stati inseriti in un album che si chiama Live at the Fillmore East, e che è stato però pubblicato nel 1998, quindi praticamente 30 anni dopo. Andiamo ad ascoltare un super classico dei Jefferson Airplane, che poi sarebbero diventati prima Jefferson Starship e poi solamente Starship, ma queste sono altre due storie che per il momento non ci interessano. Jefferson Airplane, 3 maggio 1968, Somebody to Love. That microphone. When the truth is found to be lies, and all the joy within you dies, don't you want somebody to love? Don't you need somebody to love? Wouldn't you love somebody to love? You better find somebody to love. Gotta find a more love. The garden flowers, my baby. probabilmente il brano più famoso di Jefferson Airplane, si chiama Somebody to Love. Come molte registrazioni effettuate negli anni 60, la qualità audio non è il massimo della vita, ma il brano è sempre molto bello in qualsiasi maniera la si ascolti. Erano appunto Jefferson Airplane, 3 maggio 1968, Live at Fillmore East, l'album che finisce con questa Somebody to Love. Gli anni 70 sono rappresentati da un personaggio molto sfortunato, un cantante che si chiama Frankie Miller, che aveva una voce spettacolare e negli anni 70 diciamo combatteva fra virgolette naturalmente con Rod Stewart come miglior voce britannica. Poi evidentemente non ha avuto il management che ha avuto Rod Stewart e quindi è rimasto nel dimenticatoio. Il problema oltretutto è stato che nel 1994, mentre si trovava negli Stati Uniti dove viveva all'epoca, ha avuto un aneurisma dal quale si è ripreso dopo 5 mesi di coma, e però non sapeva più parlare né tantomeno cantare. Ha avuto una riabilitazione molto lunga e adesso sta bene. Fra l'altro dovrebbe uscire un suo album prossimamente, perché sono stati ripescati dei nastri vecchi, tutto per raccogliere fondi per le sue cure. Come sapete negli Stati Uniti sono veramente costosissime. L'album che ci andiamo ad ascoltare è della serie BBC Radio One Live in Concert ed è stato registrato al Paris Theatre di Londra, che era appunto il teatro deputato per questi concerti. Ce ne andiamo ad ascoltare questo è quello che diciamo il classico per quel che riguarda Frankie Miller, anche se non è che sia molto famoso. To Be Good to Yourself, Frankie Miller, era il 3 maggio del 1977. Beh, avevo detto di una grande voce ed effettivamente Frankie Miller aveva una grande voce, purtroppo è successo quello che vi ho detto. Da allora sono stati fatti anche numerosi concerti per raccogliere fondi appunto per le sue cure, e tutto il mondo musicale sia americano che britannico si sono stretti attorno a lui. Questi invece erano i bei giorni, 1977, e tutto registrato dalla BBC, inserito in quella ben amata serie che si chiama appunto BBC Radio 1 Live in Concert, e che purtroppo ha smesso di essere pubblicata. La cosa mi dispiace molto, però il brano che ci siamo ascoltati si chiama Be Good to Yourself. Era il 3 maggio del 1977. Gli anni 80 sono rappresentati dai miei Beniamini Fish, grande band che nel 1988 era alle prime armi, anzi nel 1988 pubblicò il primo album autogestito, autoprodotto, solamente in cassetta. Non esisteva vinile né tantomeno CD nel 1988, e però ebbe talmente successo questa cassetta passaparola, passamano, ebbe veramente tanto successo che poi la Elektra li prese sotto contratto nel 1992, l'anno in cui ripubblicò la cassetta che si chiama Giunta. O Gianta, chiamatela come volete, insomma, e la ripubblicò con allegati due brani dal vivo, perché l'album era chiaramente in studio. I due brani dal vivo sono stati registrati al Nectar di Burlington nel Vermont, che è la loro città natale, e che sono un po' particolari, diciamo, non è che siano molto radiofonici, ma volevo farvi ascoltare i Fish alle prime armi. E qui appunto siamo nel 1988, esattamente il 3 maggio, e siamo alle prime armi. Il brano che ci andiamo ad ascoltare sono i Fish, si chiama Sanity. We'd like to do a little Jimmy Buffett now. Songs by Jimmy Buffett. Mine just up. can trespass anywhere. Anywhere. Trespass anywhere. Anywhere. Oh, you'd better beware. Cause where? Trespass anywhere. I forgot the rules, I forgot my pride. His pride. I need a place to hide. I forgot. Pride. I forgot my pride. But pride. I need a place to hide. Stars in the sky are very bright. Stars are the bright. Stars in the sky are very bright. Stars are bright. Stars, they really suck tonight. Stars, the suck. Stars in the sky are very bright. And I don't care if the world explodes. World explodes. I don't care if the world explodes. Explodes. You can save the whales, you can save the toads, explodes. But I don't care if the... today, cause sanity never came my way. Lost my mind just a couple of times. Lost his mind just a couple of times. Avete sentito una cosa un po' pasta, anzi un bel po' pasta a dire il vero, ma i Fish, loro che ci siamo ascoltati, sono sempre stati influenzati da Frank Zappa in maniera abbastanza pesante anche a volte, come hanno dimostrato in questo brano che, lo ripeto, si chiama Sanity. È uno dei due brani live aggiunti nella ristampa in doppio CD del loro primo album, che si chiama tuttora Giunta, e che era un album in studio, poi è stato ripubblicato ed è arrivato fino a noi in versione doppio CD con questa aggiunta che rappresenta bene quello che erano i Fish all'inizio della carriera. Poca gente, pochissimo oserei dire, e questa pazzia latente che poi avrebbero sviluppato fortunatamente in maniera più musicale in altre occasioni, in altri lidi e fino a diventare la super band che sono adesso. Il tutto era registrato il 3 maggio del 1988 in quel di Burlington, Vermont. You think I bow out 'cause I think you're right or 'cause I don't wanna fight? Not tonight. We'll wake up different, rifle through our dream. Another placid day ripples at the seams. Do you think I bow out 'cause I think you're right or 'cause I don't want to fight? Do you think I bow out 'cause I think you're right or 'cause I don't want to fight? So become his shot so subway grim, then it's gone. Do you think about how? 'Cause I think you're right up, 'cause I don't wanna fight. Do you think about how? About 'cause I think it right out 'cause I don't wanna fight. 3 maggio 1991, in scena al famoso Roxy di Los Angeles sul Sunset Boulevard, abbiamo i canadesi Tragically Hip, una band che in patria è famosissima, idolatrata e veramente portata in palmo di mano, come si diceva una volta, è durata dal 1984 al 2017, l'anno in cui è morto il cantante, nonché frontman, nonché principale compositore, che si chiamava Gord Downie, e dopodiché la band ha deciso, giustamente, secondo me, di non proseguire l'attività, almeno con il nome Tragically Hip. Il brano che ci siamo ascoltati, introdotto dallo stesso Downie, era un pezzo che si chiama Fight, era appunto il 3 maggio del 1991. Gli anni 2000 si aprono con una band molto molto poco conosciuta, soprattutto alle nostre latitudini. Si chiamano 2220s, 2220 è un brano di Robert Johnson, che è uno dei suoi più famosi ma meno suonati, però, a dire il vero. E 2220s è una band di rock blues britannica che ha fatto qualche album sparuto, diciamo, perché fra parentesi sono durati sì fino ai giorni nostri, dal 2002, ma si sono sciolti e riformati diverse volte, sempre sotto la guida di Martin Trimble, che è il cantante chitarrista, però appunto questo scioglimento e ricongiungimento ha fatto sì che abbiano fatto 4 o 5 album nel corso di un ventennio, e poi si sono sciolti definitivamente, ma come dicevo, come si intuisce facilmente, non è assolutamente scontato. L'album che ci andiamo ad ascoltare, che in realtà è un mini album, è stato registrato allo Zodiac di Oxford, in Gran Bretagna naturalmente, e si chiama 5-3, perché, anzi 0503, appunto, perché è stato registrato il 3 maggio, e non c'è scritto l'anno, ma ve lo dico io, appunto è il 2003. Il pezzo è quello che apre tutto il mini album, e siccome c'è di mezzo Robert Johnson, e quando c'è di mezzo lui c'è di mezzo anche il diavolo, il primo brano si chiama Devil in Me. We'll be right back. Si chiamano 2220s, per chi non è riuscito a interpretare il mio inglese maccheronico, dirò che è praticamente 22-20. È un trio che appunto viene dal Lincolnshire in Gran Bretagna e che ha pubblicato questo mini album molto molto interessante, che è stato registrato ad Oxford, naturalmente sempre in Gran Bretagna, il 3 maggio del 2003. L'ultima cosa di oggi è una cosa veramente favolosa per quel che mi riguarda. Prima però vi voglio ricordare che vi siete ascoltati una versione ridotta, forzatamente ridotta, di Città Fujiko Live Club. Ho iniziato una mezz'oretta di ritardo perché appunto il traffico mi ha bloccato da San Giovanni in Persiceto a qui, praticamente un'ora e mezza, e anzi un'ora e tre quarti a dire il vero, e quindi è una di quelle giornate veramente molto molto storte. Comunque poi siamo andati avanti e siamo arrivati a Recorded Today, che andrà a concludersi non prima di avervi ricordato appunto che ogni mercoledì va in onda questa trasmissione Città Fujiko Live Club dalle 10.30 traffico permettendo alle 12.25, e che l'appuntamento è per la prossima settimana sempre sui 103.1 MHz in modulazione di frequenza stereofonico di Radio Città Fujiko. Vi ringrazio per l'ascolto, vi lascio con una cosa che ripeto a me piace tantissimo, è un bignamino, una versione molto ridotta a dire il vero di un classico dei Pink Floyd che si chiama Atom Earth Mother. Pink Floyd, come sapete, hanno avuto dei problemi fra Roger Waters e gli altri, e una volta risolti questi problemi, qualche tempo dopo però i Pink Floyd si sono sciolti e David Gilmour va in giro, il chitarrista, suonando la musica dei Pink Floyd, Roger Waters, il bassista, va in giro suonando la musica dei Pink Floyd, e anche Nick Mason, il batterista, va, i tre superstiti in pratica, va in giro suonando la musica dei Pink Floyd. Però lui, Nick Mason, nella sua band che si chiama Soulful of Secrets, fa musica solamente, la musica dei Pink Floyd solamente dei primi due album, e quindi ci mette in mezzo, fra parentesi, anche Atom Earth Mother, che sarebbe il terzo, ma comunque è lo stesso, e ce l'andiamo ad ascoltare. Questo è un bignamino, lo ripeto, Nick Mason, Soulful of Secrets, si chiama Atom Earth Mother. Ciao a tutti da Nevio.